Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. L'Europa cerca misure per difendere la moneta unica. Oh! Assassini! Perché non si può portare il velo? Se vengono qui d'Italia si devono adattare le leggi nostre. Coi sangue sulle vostre buste paghe, usurai! Siamo uguali e non siamo pezzi di carne. Nessuno sa quello che ci sta per arrivare addosso. Io adesso non vedo più l'Italia. Siamo persone e questo è il futuro che speriamo. Una lunga veglia di preghiera durata tutta la notte per rendere omaggio al cardinale Carlo Maria Martini, morto venerdì scorso a Gallarate. Giovani e vecchi, turisti e milanesi lo hanno voluto salutare così per l'ultima volta. Lo sapete che scompariremo tutti? Di noi non rimarrà nulla, non rimarrà traccia di quello che oggi noi consideriamo il punto essenziale della nostra civiltà. Questo chi lo dice? Ma lo dicono un po' tanti, in vari campi dello scibile umano, nell'economia, nel paesaggio, riguardo al nostro patrimonio artistico, riguardo ai valori, alle belle cose di una volta, fino ai piatti della cucina scomparsi di nostra nonna, ma è raro trovare una persona che in sé riassume come un anatema la profezia che noi scompariremo tutti. Questa persona non ha altro appellativo possibile quello di essere considerata un'eretica. Io ho pensato e riflettuto perché voglio trovare un vero eretico. Non ho trovato un eretico nel panorama del nostro pensiero, della nostra cultura, dell'espressione politica, se non un'antropologa. Lo dico con grande rispetto per far capire la difficoltà del nostro paese nel partorire anime eretiche, classe 1925. Questa signora è Ida Magli, antropologa che ho questa mattina in studio. Ida Magli, buongiorno. Buongiorno. Ida Magli ha scritto un libro, Dopo l'Occidente, edizione Rizzoli, lo strapotere della finanza, la fine della politica, il tramonto della Chiesa, come possiamo riprendere in mano il nostro futuro prima che i banchieri ce lo comprino a prezzi stracciati. Che è un libro fondamentalmente, radicalmente eretico. Eretico perché dice tutto quello che ognuno dice per un pezzetto, fino a che fa comodo alla propria parte, alla difesa della propria fazione. Nessuno mai a 360 gradi ce l'ha con tutti, vede disastro ovunque. Beh, questa persona la trovavo interessante per iniziare questa mattina. 800240024, cos'è che vi fa paura perdere? Per cosa vi preoccupate? Cosa immaginate che scompaia lasciando in voi un vuoto incolmabile? Ida Magli, perché l'Italia sta per scomparire? Qual è la ragione? Se dovesse sintetizzarla in un termine, lei che è sempre stata eretica, negli anni 70-80 era cattolica e allo stesso tempo femminista, punta, firma di punta di Repubblica, però a un certo punto ha cominciato a scrivere prendendo le distanze da alcune posizioni di Papa Wojtyła sulle donne e non ha scritto più per Repubblica. Poi andando avanti ha scritto libri bellissimi su Gesù di Nazareth, indicandone l'aspetto veramente rivoluzionario. I suoi libri sono stati messi all'indice, i numerari dell'Opus Dei non li possono leggere, sono libri proibiti. Ecco, oggi perché sta continuando a cavalcare l'eresia? Perché da una parte sono convinta che la nostra civiltà sta per morire e dall'altra parte però c'è la speranza in una denuncia così oggettiva, documentata come è quella che ho tentato di fare in questo libro, c'è ancora la speranza, diciamo disperata, che qualcosa si salvi. Quindi sono in contraddizione in qualche modo con me stessa. Come antropologa so che non c'è niente da fare. Come italiana, come persona che ha amato sempre l'Italia, che ama gli italiani, malgrado se ne parli sempre male, vorrei fare qualche cosa per salvarli. E quindi con una denuncia così, ripeto, oggettiva ma al tempo stesso appassionata, spero di suscitare perlomeno qualche interrogativo esplicito, perché come lei diceva prima, implicitamente queste cose si pensano, si dicono, diciamo, a se stessi, si percepisce il senso dell'agonia della nostra società e però non se ne discute a viso aperto. Diciamo che sul tavolo dell'agonia ancora ognuno cerca qualche pietanza per poter sopravvivere. Ognuno impugna l'agonia per la parte che a lui interessa. Il primo destino dell'eretico, il destino finale dell'eretico è essere bruciato sul rogo. Lei è ancora qui, quindi ancora non l'hanno bruciata. Però prima di essere bruciato viene scomunicato. La scomunica è una cosa molto interessante, perché nessuno può parlare con colui che si fa portatore di menzogna, e lui non può parlare con nessuno. Quindi lei può parlare questa mattina. È stata rimessa l'istanza di scomunica. Però vorrei capire, lei è antropologo, dice all'inizio del suo libro, l'antropologo in sé è una persona che porta morte. Quando arriva l'antropologo, la civiltà o è finita o sta per finire. E noi in che fase siamo? Nella fase ultima della decadenza di una civiltà, antropologicamente parlando? Siamo nella fase ultima della decadenza della civiltà, naturalmente civiltà occidentale, il che significa non soltanto l'Italia, anche se l'Italia è stato sempre l'epicentro di tutti i conflitti positivi e negativi in Europa, ma per Occidente si intende tutta l'Europa, perlomeno quella dell'Ovest, e l'America, perché in questo destino itinerario di decrepitezza è inserita anche l'America. L'America sta declinando e declinerà sempre di più appena scompariremo noi. E lei, per paradosso, vede la Russia come una nazione che ritroverà una sua centralità e una sua giovinezza. Perché questo? Cosa fanno i russi rispetto a quello che abbiamo fatto noi? Ma i russi hanno prima di tutto la forza di chi può guardare ad una rivoluzione come quella bolscevica, che ha veramente tentato di distruggere tutto il passato, fucilando centinaia di migliaia le persone, e quindi sanno che non è ammazzando le idee che si riesce a sopravvivere. Però hanno mantenuto i punti fermi, la loro letteratura, la loro poesia. E la poi amano mantenerla, ne vanno orgogliosi, ne andavano orgogliosi anche i bolscevichi, insomma, malgrado tutto Dostoevskij, Tolstoj è stato scomunicato dalla Chiesa ortodossa, ma è stato sempre amato dai russi. E quindi, siccome la forza della civiltà letteraria, musicale, poetica russa e anche di riflessione cristiana dei russi era influenzata dall'Europa, perché la chiamavano la finestra sull'Europa, prendere tutto quello che di meglio trovavano in Europa. Si è salvaguardato tramite la Russia quello che si è perduto in Europa. E appunto, io credo che rimarrà. E gli orfani dei santuari italiani o francesi o spagnoli andranno in Russia per ritrovare un minimo di sensibilità, per esempio cristiana, perché da noi è vero che si va ad omaggiare la Salma di Martini oggi, ma come si andrebbe da un qualsiasi divo, non c'è nessuna religiosità in questo. Secondo lei i preti credono in Dio oggi? Come dice? I preti credono in Dio. Non capisco. I preti credono in Dio. I preti in Russia non hanno una funzione di guida, di leadership, quindi i pochi monaci che sono sopravvissuti a fucilazioni straordinarie si occupano della liturgia che è importantissima nella religione ortodossa. E però per noi non andrebbe comunque bene, perché da noi era necessario il Gesù vero. E il Gesù vero non è quello della liturgia. Ha sempre detto non ripetete parole, quindi la liturgia ripete parole. Le vostre parole siano sì sì, no no, tutto il resto è di troppo. La liturgia dice solo il troppo e non dice niente di essenziale. Quindi tutte le istanze oggi vengono fatte anche dalla politica per il recupero dei valori, il recupero della famiglia, il recupero dei valori spirituali. Oggi c'è un movimento che ha protestato per il solito film blasfemo della mostra di Venezia, la donna che amoreggia con un crocifisso e via dicendo. Ecco, sono soltanto superficiali rappresentazioni, qualcosa che non è più sentito come profondamente trasmutatore, che questo dovrebbe essere la religione. Sono secondo me tentativi esasperati di convincersi che non si è ancora toccato il fondo. invece lo abbiamo già toccato. Sentiamo un primo ascoltatore, Alessandro, 800240024. La domanda è semplice. Noi stiamo attraverso una signora canalizzata con strumenti scientifici, perché è un'antropologa, ma anche con partecipazione personale, perché si è sempre dichiarata una donna cattolica, ha anche pagato il suo essere cattolica. Perché? Perché a un certo punto ha messo in crisi l'istituzione, guardava l'istituzione attraverso le categorie eterne, che sono quelle dell'analisi del sacro, del rapporto del sacro, non attraverso le categorie politiche o la ricerca dei valori. Sentiamo Alessandro. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi sente? Sì, certo, bene. No, niente, io volevo fare i complimenti alla professoressa, all'antropologa, alla studiosa e soprattutto all'intelligenza veramente libera che è fuori, diciamo così, degli schematismi nei quali ci ha inserito questa cultura terrificante che è quella del politicamente corretto. Qual è il suo punto di vista, Alessandro? Cominciamo col suo punto di vista. Il mio punto di vista coincide al 90% con l'approccio, diciamo così, tra virgolette, eretico della professoressa, in quanto recupera una nozione che è quella della scelta la più libera possibile. Non a caso eresia, mi pare, se non sbaglio, il greco significhi proprio scegliere, tra l'altro. Quindi questo aspetto della ricerca della professoressa mi interessa molto, tra l'altro anche verificando il fatto che è poco citata nei libri di antropologia. Forse non è un caso. Beh, tanto per dire come anche nella la scomunica è alla base dell'eliminazione dell'eresia comunque. Ma io non sono qui celebrare i Damagli o per metterla sugli altari, semplicemente che mi sembrava una voce interessante. Ma se dovesse mettere a punto quello che è il pensiero che è espresso in questo libro, cioè noi nel 2050 non avremo più una chiesa, non avremo più un luogo che ci ricordi la nostra arte, il nostro passato, la nostra cultura, lei pensa che è esattamente così, potrà accadere questo? Quali sono le ragioni per cui questo accade? È uno scenario terrificante quello che propone, è uno scenario che fa tremare i polsi, è uno scenario che però comunque può essere assolutamente possibile visti gli andamenti che nella politica, nella storia del mondo, ci sono stati addirittura delle scomparse totali di civiltà sulle quali noi poi da archeologi della storia andiamo a scavare e sotto ritroviamo quelle cose. È certo che questa nostra cultura occidentale, che è rappresentata dall'arte, dalla scienza, dalla stessa politica, dalla democrazia, eccetera, possa essere un domani da altre forze che non accettano questi valori, possa essere sommersa, schiacciata, distrutta, cancellata. I Damagli, abbiamo sentito Alessandro, cominciamo a vedere quali sono i punti, i segni, i sintomi. L'antropologo vede i sintomi, dice questa civiltà sta decadendo, è decaduta, è stata sovrascritta un'altra civiltà perché è accaduto questo, questo e quell'altro. Cosa è accaduto nel nostro paese, diciamo, negli ultimi 50 anni? È inutile andare tanto indietro. Intanto diciamo che la questione fondamentale posta dalla uguaglianza delle donne ha spostato totalmente i ruoli, perché una società vive di ruoli. Quindi, malgrado io sia stata una delle persone che ha più partecipato, desiderato, aiutato perché le donne venissero emancipate, come si diceva, no? E quindi diventassero anch'esse personaggi che agiscono nella storia in maniera evidente. Sbaglio all'origine della sua eresia, proprio il fatto, lei disse, che Gesù Cristo era un personaggio rivoluzionario perché sconquassò il tabù fondamentale dell'ebraismo nei confronti della donna impura. E infatti è così. Fra l'altro nei Vangeli è talmente evidente che i personaggi femminili sono troppo numerosi in confronto all'esiguità dei testi, che evidentemente sono stati molto tagliati, eppure gliene sono rimasti troppi di questi personaggi femminili. Quindi sicuramente Gesù è stato il primo a parificare le donne. Però la Chiesa ha fatto finta di non saperlo, insomma, la Chiesa organizzata, perché una cosa è amare Gesù, parlare di Gesù, credere in Gesù, una cosa è vedere quello che ha fatto la Chiesa. Lei ce l'aveva in particolare con Papa Wojtyła, il Papa Santo. Wojtyła era un uomo spietato. ricordo che fece questa impressione su Repubblica quando io scrissi questa cosa. La cacciarono per questo la Repubblica? Sa, i misteri dei giornali lei li conoscerà meglio di me, i giornali. Però fu in coincidenza, diciamo. Fu una coincidenza, quella e poi subito dopo l'Europa, perché l'Europa è talmente sacra che io la considero un altro fattore diciamo di esclusione dal mondo della civiltà. Era Scalfari il direttore al tempo? Era Scalfari. Sì, ma gli disse francamente: non devi scrivere queste cose? No, perché nei giornali io ero un collaboratore esterno. La seconda esterno, basta, però quindi... scriveva in prima pagina, mi ricordo, il suo editoriale. Certo, scrivevo in prima pagina. Era però... al posto di Michele Serra. È vero, scrivevo in prima pagina, non solo, ma le ricerche di mercato dicevano che era uno dei fattori di maggiore lettura, il mio pezzo. Poi ci fu una ragion di Stato di un giornale, diciamo, progressista di sinistra, lei toccò due punti che non doveva toccare. Primo, il Papa che metteva tutti d'accordo. Tra l'altro io avevo scritto prima una letterina a Scalfari. A livello personale, mettendo quando era stato fatto Papa Wojtyla all'inizio, mettendolo in guardia sulla personalità di questo Papa, e allora lui mi rispose, da perfetto politico quale era e quale è, può darsi che tu abbia ragione, cioè che sia un uomo che farà del danno, però sa fare il suo mestiere. E questo era una risposta politica perfetta, perché infatti nessuno ha fatto meglio il mestiere infatti di Papa mestiere. Che Wojtyla, lo stanno facendo santo, quindi significa che ha corrisposto pienamente alle mete che la Chiesa si proponeva. Ma la spietatezza di Wojtyla nei confronti delle donne si è vista in due fatti particolari. Il primo, quando ha chiesto alle donne bosniache che erano state stuprate durante la guerra terribile, no? La guerra di Bosnia, di non abortire, messe incinte dal nemico. E quindi, insomma, chiedere... Ma poteva un Papa dire altrimenti? Poteva starsi zitto perlomeno, eh? Cioè, c'è sempre una scelta. Se uno parla e parla da Papa, evidentemente aggrava molto le situazioni, no? E l'altro caso? L'altro caso è stata l'enciclica. Io ho fatto un libro poi contro Wojtyla, non potendo più scrivere sui giornali, ho scritto un libro proprio sulla enciclica, sulla dignità della donna, cominciando dal titolo, perché dicevo: perché mai si deve parlare della dignità della donna? Perché c'è bisogno di dirlo che le donne hanno una dignità da difendere. No, dei maschi non ha mai scritto un'enciclica sulla dignità. Questo per dire che se oggi dice che uno dei problemi della decadenza è il ruolo della donna, lei prima mi ha detto che le donne non hanno fatto prigioniere, hanno vinto una battaglia ma non hanno fatto prigioniere, hanno sterminato il loro antico nemico. A prova, perché però lei parte da posizioni di estrema difesa, ha pagato. No, io considero un errore da parte di chi fa una guerra e uccide i vinti, considero un errore il fatto che le donne non hanno aiutato i maschi, perché i maschi sono stati praticamente, hanno perso il proprio ruolo di leadership in tutti i campi, compreso quello sessuale. Spesso si dice che il maschio adesso ha paura. Che no, antropologicamente deve essere così in realtà. Uno lo fa il maschio e l'altro la donna. Appunto, ma non l'hanno fatto. Poi diciamo che il perseguire l'uguaglianza concreta è un errore, perché l'uguaglianza delle persone è metafisica, non è fisica. Quindi si è fatto lo stesso errore che per esempio facevano i bolscevichi, che per dimostrare che loro trattavano le donne alla pari dei maschi le mettevano a fare i lavori più pesanti, no? Fisicamente più pesanti. Allora è stupido pensare che la donna abbia più forza del maschio o uno uguale forza muscolare. Fermiamoci un istante, sentiamo Andrea. Io chiederei di chiamare anche all'800240024 qualche ascoltatrice. Vorrei riattingere al bacino fervido e interessato del nostro ascoltatrice, perché stamattina abbiamo una donna che ha avuto un iter ideologico, culturale, di presenza molto interessante, proprio perché ha rappresentato il punto di vista femminile e oggi dice: le donne hanno stravinto e non hanno lasciato assolutamente sul campo di battaglia vivo nessuno dei loro nemici, e questo è il motivo della crisi. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi e innanzitutto un saluto particolare alla professoressa Magli, perché io sono uno storico e mi sono comunque passato praticamente quasi tutti i suoi testi. Io l'intervento mio di oggi in buona sostanza voleva andare da un'altra parte, tuttavia durante la trasmissione ho sentito e ho seguito molto. E volevo chiedere, gentilissima professoressa Magli, nel 2008 lei aveva fatto composto un piccolo saggio dal titolo Progetto Ebraico, e quindi cercando di ricollegarmi al discorso che stavate facendo adesso. No, guardi che sbaglia con qualche altro autore, io non ho scritto nessun progetto ebraico. Io ce l'ho ancora qui da parte. Ma non può essere. Italiani Liberi 17-12-2008? Ma sarà stato un articolo, non un libro. No, io di fatto parlo di saggio. Ah, un articolo. Ah, un articolo. Ho capito, scusi. Sì. No, ci mancherebbe altro. Io volevo soltanto chiederle questo, professoressa. Il ruolo del sionismo in questa rotta che sta... che io, tra l'altro, condivido pienamente, che stiamo seguendo noi occidentali. È un ruolo effettivo, è un ruolo marginale, ha un peso culturale, punto di domanda, tutto qua. Allora, abbiamo soltanto un minuto, possiamo solo accennare una risposta del minuto. Questo è un altro tema scabroso, quelli sfiorati da Damagli. Sappiamo bene che l'idea di una sinarchia di finanza ebraica voleva strangolare il mondo, è l'idea forza su cui poi si è articolato lo sterminio sistematico dell'appartenenza a parte del nazismo. Però oggi di tutto possiamo parlare, quindi anche di questo problema cercheremo di accennare. Una battuta che poi diamo le informazioni della borsa, poi riprendiamo. Io credo di poter rispondere in questo modo, in quanto antropologo, e cioè trovo che gli ebrei dovrebbero aiutare tutti noi, compresi i musulmani, perché i musulmani si rifanno all'Antico Testamento tramite il Corano, prima di tutto eliminando la circoncisione. Poi spiegherò, magari se c'è un minuto di tempo dopo, che cosa intendo con questo. È un tema difficile, non lo possiamo affrontare in 30 secondi, quindi diamo la linea all'informazione della borsa, riprendiamo poi con i Damagli. 800240024, eliminare la circoncisione, ha detto una cosa molto pesante, saranno molto arrabbiate molte persone. Melog, la realtà condivisa. Sta scendendo la sera sull'Occidente. Dopo l'Occidente è l'ultimo libro di Damagli, Edizioni Rizzoli, un libro in cui tocca tutti i temi dolorosi per cui la nostra società è in questa sorta di perenne e sembra inarrestabile movimento di decadenza. Ma li mette tutti assieme, qualcuno ne prende uno, qualcuno ne prende un altro, chi dice che è colpa della politica, chi dice colpa della religione, chi dice colpa della decadenza dei costumi, chi dice che è colpa di chiunque vogliate, ma nessuno li mette mai tutti assieme. Questo lo fa i Damagli. 800240024, di cosa voi avete paura? Quali sono i sintomi della decadenza? Aveva chiamato un ascoltatore, aveva posto un problema, i Damagli mi sembra aver capito che ha spostato il suo punto di attenzione antropologica dalle donne agli uomini. Per anni si è occupata delle donne, ha fatto battaglie contro l'infibulazione, è stata la prima a rivelarci che gran parte delle ragazze che noi vedevamo nelle nostre case, ci aiutavano nei lavori, che vedevamo nelle nostre università, erano ragazze infibulate, cucite nelle loro parti intime dagli uomini che volevano con questo sigillarle, chiudere la cosa che più faceva paura ai maschi. E oggi Damagli, al contrario, si rivolge ai maschi come delle povere vittime e dice: smettete di circoncidervi. È la prima a dirlo in maniera così esplicita. Ma io credo che faccio la stessa operazione con i maschi che facevo cercando di far togliere l'infibulazione alle donne. Operare sulle parti sessuali è uno strumento antichissimo, selvaggio, primitivo, che non ha senso nel mondo di oggi, no? non ha nessuna giustificazione. Cioè, non si può giustificare un Dio che chiede ai propri fedeli tagliare un pezzo di pisello del figlio. Vero che sta scritto nella Bibbia, il problema è che la Bibbia va analizzata con gli stessi strumenti filologici, storici, eccetera, che adoperiamo oggi per qualsiasi altro testo. Per cui pensare che si debba fare alla lettera tutto quello che è scritto nella Bibbia mi sembra effettivamente un pensiero selvaggio, primitivo. Cioè dovrebbe essere un segno di lettura attuale della religione, mantenendo profondo il senso del sacro, il rispetto per la religione, dire smettiamo di tagliare un pezzetto di prepuzzo ai figli perché non ha senso. Certamente è così. Io credo che, a parte il fatto che pensare che a un Dio interessi un pezzetto di membrana di un corpo, e lei chi dovrebbe, da chi dovrebbe partire questa idea di passo avanti? Devono essere per forza gli ebrei, perché è vero che i musulmani sono milioni di persone in confronto agli ebrei, che sono un piccolo numero, però la conduzione intellettuale oltre che religiosa la devono fare per forza gli ebrei. Penso che se gli ebrei facessero un lavoro del genere, aiuterebbero molto i musulmani anche loro a lasciare, insieme al rito della circoncisione, altri riti che i musulmani seguono in maniera magica, perché è magico seguire la lettera, è un tentativo magico. Quindi anche la lapidazione di una donna ma certamente. Impura che ha sbagliato. Insomma, noi sappiamo benissimo, perché ne parla Gesù nel Vangelo, no? Che non si deve lapidare, perché lo si faceva e loro continuano a farlo. Cioè, se si iniziasse a smettere di interventi cruenti e drastici sul corpo, lentamente la religione diventerebbe meno vessatoria per tutti. Ecco. E poi diventerebbe più pensata. Meno magica, ripeto, e quindi meno selvaggia, meno primitiva. Sentiamo cosa ne dice Italo, un ascoltatore. Buongiorno. Buongiorno, abbia pazienza, professoressa Maggi. Io mi chiamo Italo Liberti, ho quasi 70 anni, ho tutti i difetti, sono leggermente di destra, sono ebreo e sono iscritto alla massoneria. C'ho tutti i difetti, ma la massoneria di quella che non accetta le donne, goi. Precisamente. Ma ecco. Perché li considera difetti? Se lei è convinta che questi sono valori in cui si identifica, perché li considera difetti? Lei è una forma retorica che va, chiama ironia, professore. Cioè, lei si presenta dicendo sono il male assoluto, per i Damagli. Sì, ecco, sì, per i Damagli sì. Ascolti, professoressa, innanzitutto difendo la circoncisione, perché in quelle zone lì non veda come alta magica la circoncisione, qualcosa. È qualcosa di assolutamente utile. Su questo, guardi, mi permette Italo, teniamola su un piano di osservanza religiosa, non diamogli un senso speculativo di utilità, perché potrei portarle un'infinità di andrologi, urologi che dicono che in realtà se il prepuzio esiste qualcosa serve, ma mettiamola su un piano di osservanza religiosa, non dica che è utile, perché è come quando negli anni 60-70 si toglievano tonsille adenoidi a generazioni di bambini perché sembrava utile, poi si è dimostrato che se c'erano qualcosa dovevano servire. La metta su un piano rituale, lei è convinto, quello che dici Damagli, che togliere gli aspetti più cruenti della religione potrebbe una religione che in realtà si occupi soltanto della trascendenza, come dovrebbe essere per ogni religione? Ma questo assolutamente, però, ma ripeto, io proprio specificamente sulla cosa, una religione deve anche servire a vivere. La religione può regolare la vita degli stati, la filosofia, anche la religione, perché no? Perché questo qui assolutamente. È un suo punto di vista. Io da laico non mi ritrovo in questo. Rispetto. Va bene o non va bene? Questo è il problema. Insomma, cioè, certamente non va bene flagellarsi per cose, non va bene questo, ma la religione io la vedo per uno. Strettamente vorrei. Senta, se io penso che gli ebrei hanno la verità, questo. Io la assicuro che non ce l'hanno la verità, nessuna religione. Nessun essere umano è possessore della verità, questa è una cosa giusta. Ma comunque il suo punto di vista è molto chiaro. Sentiamo Corrado, un altro ascoltatore. Buongiorno dottor Nicoletti, e complimenti vivissimi per aver invitato gli Damagli. Vedo una latitanza di donne, però molto sospetta questa mattina. Corrado. Allora voglio dire questo, a parte condividere le affermazioni che ha fatto. Io per esempio sono cristiano e non mi ritengo più cattolico, pur avendo scritto un libro sulla infanzia sconosciuta di Gesù, proprio quando fino a una decina di anni fa ero cattolico. Io penso che non cadrà la civiltà occidentale, almeno me lo auguro, però la dottoressa pone un problema serio, perché qui prendiamo per esempio il nostro caso, il nostro governo, quello precedente, che si dichiarano liberali e non sanno nemmeno dove sta di casa il liberalismo vero, glielo dice uno che si è iscritto all'Internazionale Liberale nel 1960, visto che ho 70 anni, questi stanno distruggendo non soltanto l'economia, ma stanno distruggendo proprio la civiltà, la cultura, perché non fanno nulla per interpretare i bisogni veri di un popolo che, grazie alla televisione, alla scuola, alla latitanza di cosiddetti maître pensé, è oggi in condizioni che offre diplomati e laureati troppo spesso semi-analfabeti, sanno leggere e scrivere, non leggono e non scrivono mai nulla. Fermiamoci, Corrado, sennò mettiamo troppa carne al fuoco. Ida Magli ha toccato, Corrado, l'ascoltore Corrado, un punto importante, l'istruzione. Lei dice anche l'istruzione è in decadenza perché è in mano a troppe donne. Ah, e di questo sono convintissima, perché prima di tutto manca il riferimento della personalità maschile ai ragazzi in età di adolescenza. Cioè, avendo tutti insegnanti di sesso femminile, non vedo dal punto di vista psicologico, dal punto di vista sessuale, eccetera, come un ragazzo possa formarsi senza avere un modello di riferimento. Non entra mai nel mondo degli uomini, come era l'iniziazione primaria di ogni civiltà. Certamente. Quindi diciamo che questo è un fatto fondamentale che ho suggerito ogni volta che si è formato un governo, tranne questo, perché lo considero un governo illegittimo, questo fra parentesi, ma tutti i governi precedenti, ogni volta che si è fatto un governo, al ministro dell'istruzione gli suggerivo di mettere per obbligo, come si fa spesso per le quote azzurre nella scuola. Più insegnanti maschi. Non ci sono mai riuscita. Questo perché, secondo me? Perché gli uomini non vogliono più insegnare nelle scuole? Ma perché c'è la separazione dei sessi, è naturale. Cioè, laddove arrivano le donne, perde di prestigio il ruolo, perde di prestigio la professione, si abbassa il livello critico intellettuale e quindi i maschi si trovano male, scappano, ma al tempo stesso si tolgono pure loro dalla società. Cioè, non avere più insegnanti maschi è un grave danno per tutta la società. Secondo motivo per il quale è gravissima la mancanza dei maschi è, si dice sempre che gli italiani non sanno la matematica. Gli italiani non sanno la matematica perché la insegnano le donne. Quando mai le donne hanno prodotto qualche cosa nell'ambito ormai di secoli di cose scientifiche? Vabbè, abbiamo la Montalcini, punto e basta, che poi in biologia non è una scienza dura nel senso tecnico del termine. Per cui io credo che non sia... Non può essere anche che il lavoro dell'insegnante nelle scuole elementari e medie, in realtà è un lavoro che non permette di fare il capofamiglia, di mantenere una famiglia, quindi diventa il secondo lavoro della moglie rispetto all'organizzazione tradizionale. Ho capito, ma il fine non giustifica mai i mezzi. Questa è una cosa troppo importante per lasciarla solo al senso utilitario, no? Quindi si devono trovare dei sistemi, li dovrebbe trovare il governo, ma il governo non lo fa. Lei lo sa che ha tolto perfino il piccolissimo privilegio che avevano le donne di andare in pensione prima, quando avevano avuto dei figli. Il governo Monti ha tolto pure questo. Come lei diceva prima in Russia, le donne fanno i lavori degli uomini, quindi appunto, anche quelli più faticosi. Appunto. Quindi diciamo che questo è un gravissimo danno. L'altro danno che veramente trovo più che grave, addirittura annientante della società, aver fatto perdere il ruolo di leadership ai maschi, perché uno che insegna comunque si ritiene che ne sappia più degli altri. Visto che i maschi non insegnano più niente, hanno perso buona parte della loro leadership. Certo che stiamo tirando i remi in barca e troviamo a fare un bilancio abbastanza gravoso. Io avevo qua Ida Magli, uno dei fari del femminismo nel nostro paese, mi dice che oggi le persone di cui occuparsi veramente sono gli uomini, non tanto più le donne. Certamente sono gli uomini, però io do la colpa alle donne, come dicevamo prima, erano le donne a dover aiutare i maschi a trovare il proprio ruolo, malgrado ci fossero adesso anche le donne, perché succede poi che i maschi sono scappati, però le lasciano sole le donne. E quindi non è altro fenomeno nuovo, i maschi alla fine decidono, qualcuno si veste da donna e si risolvono fra loro il problema. Si dice che nessuno voglia più fare il ruolo attivo neanche fra i gay. Vogliamo quindi tutti essere donne. Ma io credo che sia più che essere donne non avere responsabilità, essere passivi, totalmente passivi. Del resto il governo ha ridotto passivi i cittadini, non dico solo questo governo, però effettivamente ci dicono sempre intervenite, però si figuri, se non riesce a ottenere niente una persona come me, che comunque riesce a parlare e riesce a scrivere, si figuri milioni di persone che non riescono a fare neanche questo. Quindi una partecipazione fittizia, virtuale in realtà. Qui c'è una dittatura totale. Ecco, ne parliamo fra un istante dopo le informazioni del traffico, perché il tema vero di questo libro è che l'Italia perde la sua identità e l'idea di Europa unita, di moneta unica, che oggi da molte parti desta perplessità, è stato oggetto di una profezia di Damagli che anni fa disse: ma siamo pazzi di fare una moneta unica, di pensare che l'Europa sia una realtà politica, sociale, culturale. A fra un istante. Melog, la realtà condivisa. Siamo in studio con Ida Magli, che ha scritto Dopo l'Occidente, e analizza quelli che sono i sintomi del decadimento, non tanto, anzi non soltanto dell'Occidente, ma anche e soprattutto nello specifico del nostro paese. Sentiamo due ascoltatori, poi la parola nuovamente a Ida Magli. Paolo, buongiorno. Pronto, mi sente? Sì. Intanto saluto la professoressa Magli, che leggevo sul giornale quando scriveva gli articoli. Ma ancora scrive sul giornale. Da lì ancora non l'hanno cacciata, ancora scrive sul giornale. Ultimamente non ho più tempo di leggere il giornale, purtroppo. Comunque, la cosa che volevo sottolineare è che, forse magari vado un po' fuori tema, è che uno dei sintomi della nostra decadenza è quello di essere vittime di un formidabile senso di colpa fasullo che ci portiamo dietro come tutte le civiltà sviluppate. Noi praticamente pensiamo che di essere colpevoli di tutti i mali, e vediamo in altri, in quelli che vengono da altri paesi, qualcosa di meglio, qualcosa di più puro. Quindi ammiriamo i musulmani, ammiriamo questi, ammiriamo quest'altro, e ci diamo tutte le colpe di questo mondo, lasciando che civiltà diverse dalle nostre prendano il posto della nostra nel nostro paese. Ci beiamo di è molto chiaro, voglio dare voce anche all'altro ascoltatore. Lì c'è un senso di colpa dell'Occidente nei confronti del cosiddetto terzo mondo che oggi stiamo pagando. Io penso sia un senso di colpa più che altro di superficie. Non credo che nessuno individualmente senta in colpa per nulla. Io non mi sento in colpa per nulla. Susanna, buongiorno. Finalmente. Buongiorno. Ha inaugurato le ascoltatrici. Grazie, Susanna. No, sentivo la professoressa che diceva che le donne praticamente hanno la maggioranza nell'istruzione. Sono la maggioranza. Beh, nelle scuole, penso, nelle scuole inferiori, penso di sì. Ecco, le scuole superiori, tutto magistrale, per accedere all'insegnamento era per donne, pochissime, avevamo due maschi in classe, quindi di conseguenza sono tutte amiche, sono tutte quante insegnanti. E quindi lei conferma... La scelta di studio, non perché le mamme, gli uomini dovevano fare altro tipo di scuola da geometra, quindi è stata una scelta fatta anni fa questa. Gli uomini hanno distrutto il paesaggio e le donne hanno distrutto la leadership maschile nel campo dell'istruzione. Anna Rita. No, non è stata colpa delle donne. No, non è stata colpa. Era scelta proprio allora, perché era un mestiere, la maestra, mi ricordo mia mamma, la donna deve fare la maestra, mio fratello deve fare il geometra. Ecco. Beh, c'era lì che veniva visto come ruolo più da... in embrione della società questa idea che avrebbe poi costruito la società futura, quella di cui, la cui decadenza stiamo oggi analizzando con Ida Magli, proprio questo, che nell'Italia del boom le donne andavano a fare le maestre e gli uomini pensavano alla costruzione, alla ricostruzione o allo scempio. Anna Rita. Buongiorno, guarda, io chiamavo semplicemente per questo. Intanto lei ha detto chiamano poche donne, mi sono sentita quasi no. Brava, giustamente. Io ho seguito la professoressa all'università nel lontano 89 per un periodo e devo dire... Allieva di Damagli lei? Beh sì, insomma, poi io non ho potuto proseguire, però devo dire che le sue lezioni erano veramente un momento altissimo di intelligenza e libertà di pensiero, veramente incredibile. E vorrei solo dire due cose. Uno, cioè, ricordiamoci sempre quel libro meraviglioso che è Gesù di Nazareth, che io ho messo nelle mani di mio figlio, diciamo, un po' avanti nella sua adolescenza, ed è un libro che secondo me non... bisognerebbe continuamente ovviamente parlarne, perché è pieno di tesori. E poi un'altra cosa mi ha riportato ad ascoltarla, e quel discorso importante e fondamentale sul valore dei simboli. E sentirla, io non ricordavo il Papa Wojtyla che invita le donne a non abortire, insomma, si capisce che non potesse, però meravigliosa la risposta, poteva non dire nulla. Fermiamoci qua, Narita, voglio dare il tempo poi ai Damagli di rispondere a queste domande, perché fra un pochino dobbiamo chiudere. Allora, Damagli, vediamo di tirare un po' i remi in barca. Abbiamo parlato in generale dei sintomi della decadenza dell'Occidente, abbiamo toccati alcuni, ce ne sono tantissimi altri. Andiamo nello specifico del nostro paese. In fondo la chiave per cui questo libro suscita in questo momento scandalo e dibattito è il fatto che lei ribadisce quello che ha sempre detto, che in realtà la moneta unica non doveva esistere, che l'Europa è qualcosa di artificiale, anzi che i governanti dell'Italia che abbiamo sempre avuto sono quasi persone che hanno invidia per gli italiani, siamo sempre scelti dei governanti che ci odiassero. Ma come mai è accaduto questo? Io credo che sia il frutto di una storia lunghissima, cioè un popolo che è stato governato per 2000 anni dal Papa non può avere un destino uguale a quello di tutti gli altri, perché esiste solo un popolo al mondo che ha avuto, non è questione del faraone, perché pure il faraone era una entità sacra, però prima di tutto era di molti molti secoli fa. Seconda cosa, gli egiziani credevano che il faraone fosse la rappresentanza sulla terra del Dio Sole. Quindi c'è uno specifico italiano proprio nella non mai chiara e mai definita definizione fra potere temporale e autorità spirituale. E infatti è questo il problema gravissimo, per cui diciamo che si è allineato nel profondo di chi insegue il potere, compresi i politici di oggi, di avere più potere di quanto hanno. E cioè delirano, cioè, passano dal ti tolgo le bollicine a ti tolgo probabilmente il sacramento XY, cioè hanno un senso del potere che è ancora quello del sacro, cioè che supera completamente. C'è una visione arcaica del potere, uno Stato moderno, laico, chi governa, governa e basta. Qui si sentono tutti, infatti, senza tornare adesso agli unti da Dio, perché fa parte ormai della nostra subletteratura, ma tutti sono convinti che in realtà appartengono a una casta quasi divina. Guardi, io trovo addirittura che la cosa che fa più paura oggi è l'assolutizzazione sacra dell'economia. Cioè, non è perché l'economia è lo strumento più forte, tutti siamo disposti a riconoscere oggi che è uno, ecco, ma è la sacralizzazione di questa forza. È questo, lei capisce? E cioè aver detto soltanto il signor Mario Monti può governare in questo momento l'economia significa aver chiamato il faraone. Averlo consacrato. Allora, però le faccio un'ultima domanda, nell'ultimo minuto che rimane. Se le categorie del sacro impropriamente sono state prese dalla politica, dall'economia, dalla finanza, chi in realtà doveva detenerle? Perché le ha mollate? Perché soltanto in questo modo, cioè con un potere effettivo e non più soltanto trascendente, riescono a farlo vivere. Mentre la Chiesa, che si è sempre arroccata nella trascendenza, pur poi facendo cose concrete, però le giustificava con la trascendenza, ha perso non soltanto la trascendenza, ma anche le cose concrete. Cioè non è possibile oggi pensare, e la Chiesa lo sa benissimo, anche se fa finta di non saperlo, che i preti oggi contino qualche cosa. I preti non contano, stanno lì per bellezza, perché per cerimonia ci deve essere anche il prete. Fermiamoci da Magli, la sigla ci dice la trasmissione è finita, la ringrazio. Se volete leggere quello che avete sentito, accennare questa trasmissione, dopo l'incidente, i Damagli, edizioni Rizzoli. A domani.